Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. L'UEFA attende di ricevere i rapporti dell'arbitro e del suo delegato prima di pronunciarsi sull'eventuale apertura di un'inchiesta per razzismo riguardo alla partita Bordeaux-Juventus di ieri sera. Questo è quanto ha spiegato poco fa all'ANSA Thomas Giordano del servizio di comunicazione della Confederazione Europea Calcistica. Una volta ricevuti i rapporti del delegato UEFA e dell'arbitro, lo spagnolo Iturralde González, questi vengono trasmessi alla commissione disciplinare che decide se aprire o meno un'inchiesta. Rimane il fatto che ieri, 25 novembre 2009, il calcio italiano, che come è noto non è affatto ostaggio degli ultra, come ci garantiscono i Petrucci e gli Abetido e gli Abete, dopo le farneticazioni di Fabio Capello, il calcio italiano, dicevo, ha alzato di un altro po' l'asticella della vergogna, arrivando ad esportare in Europa i cori razzisti. Sentiamo a questo proposito subito una dichiarazione di Buffon. Se devo dire la mia, in tutta franchezza, penso che si stia esagerando, perché poi in questo caso si sta facendo veramente demagogia spicciola e si sta creando il razzismo all'incontrario, ecco, perché poi alla fine quando Cannavaro gioca gli cantano Cannavaro Terrone, per dire, non è che fermiamo la partita. Per cui io penso che in tutte le cose ci sia una misura che non bisogna oltrepassare. Sono cori che sicuramente non fanno piacere, però ogni domenica anch'io, quando vado sotto le curve avversarie, me ne dicono di tutti i colori, e per cui insomma siamo abbastanza grandi e vaccinati e si cresce anche così. Grandi vaccinati e intellettuali, Buffon anche in passato aveva dato ampie garanzie da questo punto di vista. Rimane il fatto che ieri sera proprio l'intervento di Buffon, che da questo momento in poi chiamerei il minimizzatore, anche l'intervento di Buffon ieri sera è stato decisivo a Bordeaux per porre fine allo sconcio che era in atto, perché gli ultra presenti in curva si sono calmati nei loro cori contro Balotelli soltanto dopo l'intervento del loro portiere. Probabilmente c'è un feeling ben preciso, no? che può anche darsi che non sia soltanto calcistico, tra Buffon e i curvaioli. In ogni caso Buffon, il suo comportamento è stato, dicevo, decisivo, insieme a quello del direttore sportivo Secco, per calmare i cori dopo che assolutamente inutili erano stati gli appelli dell'altoparlante, anzi non inutili, controproducenti, nel senso che i testimoni presenti a Bordeaux raccontano che semmai gli annunci dell'altoparlante fatti in italiano avevano rinfocolato questi cori. Buffon ha parlato anche della partita, della sconfitta della Juventus a Bordeaux. Sentiamo. Secondo me anche 4, 5, 6 anni fa andavamo in trasferta con squadre, ottime squadre, però alla nostra portata non aveva niente più di noi, eppure non riuscivamo mai a fare la partita, non riuscivamo mai a prendere possesso del gioco. E questo secondo me è la differenza fra giocare in Italia e giocare in Europa. Se non contrapponi, secondo me, un'altra tipologia di gioco importante, secondo me si rischia di non ci parla mai. Ecco. E non è un caso che l'unica squadra italiana che va sempre avanti in Coppa è il Milan, che poi è l'unica che alla fine, rispetto magari a noi, all'Inter e alle altre, gioca un po' di più a calcio. Mi sembra sia di gran lunga preferibile il Buffon che parla di calcio, e ancora più preferibile quello che para da campione qual è. La Juve è sempre contro ogni forma di razzismo. Questa è una dichiarazione del presidente Jean-Claude Blanc. Abbiamo iniziato a lavorare su questa strada con l'UNESCO e non ci fermeremo. Continueremo a impegnarci per il rispetto e contro il razzismo sino a quando non sarà debellato. È un compito di tutti quelli che lavorano nel calcio, e finché non sarà finita la Juve sarà in prima fila. Il commento di Ferrara alla sconfitta, beh, direi in attesa, soprattutto in quelle proporzioni di brutto gioco, insomma di brutta prestazione da parte della Juventus. Ferrara. Paradossalmente abbiamo poi subito il gol quando forse stavamo incominciando a giocare meglio, riuscivamo a chiudere meglio gli spazi, e secondo me abbiamo sofferto moltissimo su punizioni, calci d'angolo. E le due occasioni, le due reti che sono arrivate proprio su palla inattiva. Eppure avevamo comunque detto di evitare falli nei pressi dell'area di rigore, invece ne abbiamo fatti veramente tantissimi. Comunque, nell'arco della gara il Bordeaux è stato superiore. Una mail a commento, l'avvocato Luca Pansini scrive da Brescia: da mezzo tifoso Juve, ieri ho guardato la partita e sono riuscito a fatica a star sveglio. Che bello aver ceduto Marchionni e Zanetti per il buon Felipe Melo, la cui percentuale di passaggi base azzeccata rasenta lo zero. In cambio la Fiorentina zitta zitta è pronta per gli ottavi, mentre la vecchia signora dovrà affrontare uno spareggio brivido contro il Bayern. Cara Juve, che pena, almeno perdere con la maglia bianconera, invece ti tocca pure indossare quel grigio metallizzato da Fiat Punto. Io direi che più ancora che da Fiat Punto, come si chiamava quel modello Fiat di un tempo che aveva la Duna, ecco, mi sembra da Fiat Duna più ancora che da Fiat Punto, quella brutta maglia che la Juve sta indossando in questo periodo. Mauro Torino, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini. Senta, io per quanto riguarda questi cori razzisti, non volevo dire la mia, se mi dà due minuti gliele espongo. Due sono troppi, gliene do uno e faccio scattare il cronometro. Allora, non dovrebbe essere difficile, secondo me, cioè individuare con la tecnologia e anche chi sono queste le persone, da dove nascono gli impulsi, no? Per questi, certo, che sono imposti e poi anche gli altri. Beh, secondo me una soluzione potrebbe essere niente, creare un recinto una volta individuate queste persone, anche 10 alla volta, se notificano un provvedimento di quando ci sono le partite tu vai in questo recinto, se non ci vai scatterà una cosa di trasgressione di obbligo. E niente, l'unica concessione in questo recinto è che ci sia un mazzischermo quando sono le partite. Nei momenti che sono le partite tu ti devi presentare lì. Mauro, lei parte dal presupposto, più che legittimo per carità, che sia necessario fare indagini per queste persone, è un presupposto completamente... è un presupposto sbagliato, nel senso che tutti sanno chi sono queste persone, sia gli organi inquirenti che le società. Se serve, ieri è arrivata una mail, ve la leggo. Sono uno dei brutti cattivi, firmata con nome e cognome. Sono uno dei brutti cattivi male abitanti dello Stadio Olimpico di Torino. Eppure devo dire che stavolta avevamo studiato le cose per bene, si riferisce a Juventus Udinese. Non abbiamo usato il famigerato UU di stampo razzistico, ma la canzonetta Politically Correct, figurati un po', intonata in tutti gli stadi da tutte le tifoserie. Niente da fare, apriti cielo. Però a pensarci avremmo dovuto aspettarcelo, visti i precedenti. E elenca alcuni precedenti in cui appare suo la Juventus è stata vittima, non vi dico di che cosa. Un consiglio a Blanche e a Secco: non fatevi beccare a mettere le dita nel naso in pubblico, altrimenti l'anno prossimo rischiamo di partire con 5 anni di penalizzazione. Evidentemente, secondo questa persona, che ripeto si firma correttamente con nome e cognome, non c'era alcun contenuto razzista nei cori di domenica sera in Juventus Udinese. La mail di ieri mattina 8:36, io poi non so se questo signore si sia o meno imbarcato per Bordeaux, i tempi tecnici c'erano. Di sicuro so che un'altra lettera, per esempio, altrettanto firmata con nome e cognome, ma in questo caso lo leggo, Luca Guerzoni, scrive: avevo pensato di portare mio figlio di 7 anni allo stadio a vedere una partita della Juve. Non andandoci da quasi 20 anni, perché mi ha sempre infastidito la maleducazione, mi sono messo alla ricerca di una partita tranquilla per poter godere dello spettacolo senza pericoli. Durante la partita con l'Udinese i tifosi della mia Juventus hanno dato il meglio di loro con i cori contro Balotelli. Ora naturalmente non porterò più mio figlio allo stadio, non finanzierò più il campionato più bello del mondo e la dirigenza di un team che non ha il coraggio di prendere posizioni forti contro la stupidità. Continuerò semmai a vedere lo sport professionistico americano e se proprio il mio bimbo vorrà vedere del calcio, gli farò vedere in TV un po' di Liga o di Premiership. Firmato Luca Guerzoni. Per la completezza dell'informazione, dire che al Milan ieri sera è andata bene nel secondo tempo, ma bene, credo sia il minimo. Sentiamo il commento di Leonardo. Credo che siamo partiti molto bene, abbiamo trovato subito il gol, purtroppo abbiamo concesso il pareggio e da lì in poi è diventata una partita un po' studiata, diversa diciamo delle ultime partite nostre, forse con questo più ritmo, con questi, diciamo, questa velocità, principalmente le ripartenze. Credo che oggi, è vero, le occasioni del Marsiglia sono state più chiare, ma mi sembra il pareggio anche giusto. Il bilancio di questi due giorni di Coppa, di due serate che certamente ci aspettavamo un po' diverse, affidate come sempre a Fabio Tavelli. Fabio, buongiorno. Buongiorno a te Gigi, buongiorno a tutti. Dunque, intanto per quanto riguarda l'italiano è ben diverso da come si era sperato prima, ed è anche paradossale a parer mio, nel senso che peggio era difficile che potesse andare per tutte e tre, tolta la Fiorentina evidentemente, ma nessuno di loro ha il cammino compromesso. L'unica cosa che insomma sarebbe potuto andare peggio è se il Marsiglia avesse segnato nei minuti finali contro il Milan, e quello avrebbe come meritava per... avrebbe potuto meritare. Se la mettiamo sul piano dei pali, sì, non c'è sì. dubbio. No, certamente è così, per cui insomma due sconfitte, un pareggio insomma come quello del Milan e una vittoria con quella Fiorentina non sono un buon bilancio. Era stato talmente positivo il bilancio della quarta giornata che questo bilancio decisamente negativo può essere assorbito da un sesto turno abbastanza normale, nel quale poi le nostre italiane avranno tutte una chance senza dover aspettare i risultati delle avversarie. Però è vero che per come avevamo presentato la giornata, per come si erano messe le cose anche complessivamente nel turno precedente, diciamo che l'unica che dalla partita non avrebbe sostanzialmente avuto nulla a livello di qualificazione se non vincendo era l'Inter. Anche se dobbiamo ricordare che la Juventus avesse fatto un risultato diverso avrebbe potuto già chiudere i conti, è la stessa cosa sì. per il Milan. Diciamo che l'Inter era quella che dalla partita poteva aspettarsi di meno, poi per come è andata la partita credo invece che sia delle tre non vittorie quella che farà meditare di più, perché insomma è stato un confronto nel quale l'Inter è uscita abbastanza ridimensionata, almeno momentaneamente. Abbastanza nettamente ridimensionata. Qualitativamente mi pare che sì. Insomma, vedendo un po' di partito, viaggiando qua e là, vedendo filmati, recuperando qualcosa, sentendo commenti, leggendo, mi pare sia stato un turno molto ma molto mediocre qualitativamente, con l'eccezione di questa lezione di calcio del Barcellona. Allora, pochissimi gol, perché nella prima giornata io do sempre uno sguardo agli under e agli over, ma non perché sia uno scommettitore, ma perché mi interessa anche da un punto di vista statistico. Nella prima giornata non c'è stata una partita che sia finita 2-1, cioè con tre gol, e ce n'è stata una nel secondo turno. Quindi grande povertà dovuta a due cose a parer mio. Una è che arrivando vicino il momento della qualificazione molte squadre sono state anche attente alla differenza reti e altre invece hanno cercato di blindare i risultati per non rischiare molto, e poi perché con tante squadre già potenzialmente qualificate, molto vicine alla qualificazione o già direttamente qualificate, molti allenatori, Ferguson soprattutto, hanno messo in campo seconde linee. E la stessa partita tra Porto e Chelsea era una partita che era niente di più che una gara amichevole. E quindi questo, diciamo così, ha inciso abbastanza pesantemente sul dato numerico complessivo. Se poi facciamo un'analisi spettacolare, secondo me dobbiamo dividerla in due, cioè dobbiamo dire che la maggior parte delle partite non ha regalato granché, però ce n'è stata una, come il primo tempo di Barcellona-Inter, sì, che seppur solo da una parte ha compensato. Di altissima scuola. Andiamo con un paradosso, che è quello che riguarda il Barcellona, per l'appunto. Nel senso che il Barcellona è l'unico che ha dato una vera lezione di calcio in questa, e tra l'altro insomma ha una squadra di... ha una squadra di grandi ambizioni. Poi il livello europeo è tutto da quantificare, anzi ai noi è quantificato da anni, però insomma, le ambizioni dell'Inter sono oggettive e innegabili, eppure il Barcellona rischia ancora di andare a casa all'ultima giornata. Il Barcellona rischia di andare a casa, è un rischio teorico, ma è comunque un rischio che esiste. Ma può perdere, tutto. Se perde a Kiev è fatto come... Non è mica detto che a Kiev sia una passeggiata, tutt'altro. Anche perché insomma, il Barcellona già qualche situazione di problema se l'è creata, intanto non affondando il colpo a San Siro all'andata, certo, ma soprattutto giocando male con le russe, con le ex sovietiche nel caso della Dinamo Kiev, perché comunque sia l'Inter che il Barcellona, se una delle due, tutte e due mi sembra impossibile, ma insomma, se una delle due dovesse, no, cioè non è impossibile, però insomma è improbabile, sì, ma insomma Dinamo Kiev e Rubin Kazan hanno veramente incartato il girone con questi pareggi che hanno sinceramente complicato la vita. Pensa se non avesse segnato Sneijder a tempo quasi scaduto a Kiev. A quest'ora l'Inter era a casa. L'Inter sarebbe stata a casa e il Barcellona avrebbe potuto giocare una partita diversa. La verità, secondo me, è che il Barcellona può giocare questo tipo di calcio solo in determinati momenti. Io non credo che a Kiev il Barcellona possa giocare la stessa partita, proprio perché da un punto di vista ambientale e tattico la Dinamo Kiev gli cambierà i connotati alla partita, e quindi credo che comunque il Barcellona sia una squadra che va esaltata, è una squadra che provoca entusiasmo, che procura sincero godimento, parliamo semplicemente dal punto di vista spettacolare ed emozionale, però è una squadra con ampi margini di rischio, perché è una squadra che in partite invece che non si aprono, in partite che rimangono viceversa incartate o incatenate magari da allenatori che tatticamente sappiano farlo, e cioè Barcellona è comunque una squadra che può rischiare soprattutto in campi complicati o in campi gelati, anche più piccoli, perché sì, Barcellona sì. Gioca molto bene quando il campo largo, si apre, certo. Questo secondo me può diventare un problema per il Barcellona. Sotto la neve su cui si è giocata per esempio Rubin Kazan di Dinamo Kiev, i grandi palleggiatori farebbero un po' molto più fatica, quindi il discorso, il paradosso è che i detentori e i maestri dell'altra sera, comunque, se dovessero perdere a Kiev e tra Inter e Rubin Kazan vince una delle due, se ne stanno a casa. Poi è improbabile, ma esiste ancora questa possibilità. Sì, sì. Ancora un paio di cose. La prima è a quota 13 ci sono Chelsea, Bordeaux e Arsenal. Mi pare che siano le due inglesi. Vabbè, il Bordeaux ha fatto benissimo, perché in un girone con Juventus e Bayern arrivare a 13 non è uno scherzo. Ma sono finora le squadre più autorevoli, a parte Barça di prima? Ma certamente il Chelsea sì. Sull'Arsenal secondo me dobbiamo ancora riflettere, nel senso che è una squadra sicuramente molto spettacolare, sicuramente con grandi caratteristiche individuali di palleggio e quant'altro, anche con un anno in più di esperienza. Non dimentichiamoci il modo in cui l'Arsenal uscì dal Manchester United l'anno scorso, però aveva un girone oggettivamente meno complicato, quindi l'Arsenal che passa il turno non mi stupisce per niente, vista la consistenza delle avversarie. Per quanto riguarda il Bordeaux, secondo me il Bordeaux in questo momento è davvero la squadra rivelazione d'Europa, perché in un girone con Verdi, Monaco e Juventus fare 13 punti, vincere il girone è una notizia importantissima per il calcio francese, che porta anche il Lione al secondo turno, che comunque non è tagliato fuori con il Marsiglia per andare al terzo. Insomma, ci sono nazioni che stanno peggio. Poi non credo che il Marsiglia passerà, però comunque portarne 2 su 3 con una che non è spacciata completamente, secondo me è uno score molto interessante. Se consideri che la Spagna ha già perso l'Atletico Madrid, il Siviglia gli è passato subito, ma Barça e Real rischiano comunque di uscire. Non usciranno, però comunque se la devono giocare all'ultima giornata. Allora, io ricordo gli appuntamenti tra 2 settimane, poi ti chiedo brevemente gli appuntamenti del fine settimana. L'8 dicembre, quindi martedì 8 dicembre, giocano Juventus-Bayern e Zurigo-Milan. Il 9 dicembre, il mercoledì, giocano decisiva, anche questa come le prime due, Inter-Rubin-Kazan, e non più decisiva, ma di grande enorme prestigio, Liverpool-Fiorentina. Chiuderei invece la nostra conversazione di oggi con gli appuntamenti di campionato, dei campionati europei di sabato e domenica. Sì, ce ne sono due, tutte e due di domenica, alle 17 Arsenal-Chelsea, è una partita che vale tantissimo, non c'è bisogno neanche di spiegarlo, ma soprattutto alle 19 Barcellona-Real Madrid, che è una sfida che stiamo veramente attendendo da mesi. Se l'ultima cosa, Gigi, ci avessero detto che all'ultima giornata avremmo avuto una qualificata e 3 in bilico, mai e poi mai nessuno credo avrebbe detto che quella qualificata avrebbe indovinato la Fiorentina. Esattamente. E questo va a demerito delle altre tre, ma va a grande merito della Fiorentina, anche evidentemente. Perché la Fiorentina aveva un signor girone, certo. Per cui complimenti davvero alla Fiorentina e insomma alle altre l'onore e anche un piccolo onere di far bene l'ultima giornata come nelle loro possibilità. Dopodiché se verranno confermate le previsioni del tempo che ho visto da poco, secondo cui domenica pioggia o comunque tempo non buono, dalle 5 in avanti del pomeriggio mi sembra che si possa sopravvivere con quelle due partite. Sì, no? Soprattutto direi che è una validissima alternativa a tutto il resto. Certo, molto bene. Grazie a Fabio Tavelli. Buona giornata a tutti, Gigi. Sto prendendo la rincorsa per leggervi un SMS che è arrivato in questo frattempo. qualche minuto ancora me lo prendo, perché non è semplicissimo davvero. Ho preso tutta la rincorsa del caso e l'SMS è il seguente, firmato con nome e cognome, arriva da Lecco e dice: non date spazio solo agli interventi e alle mail che fan comodo a voi. Io ero a Torino come tutte le domeniche con mio figlio Andrea di 10 anni e con gioia abbiamo insultato Balotelli perché è negro e non per i suoi comportamenti. Ripeto, c'è un nome e un cognome e pazienza, purtroppo c'è anche un figlio di 10 anni che cresce con un padre del genere. Mi dispiace in particolare perché contemporaneamente è arrivata una mail dall'Argentina, pensate, stiamo ascoltando in diretta, un saluto dell'Argentina, Lili e Carmelo, no? Il problema è che ci stiamo facendo riconoscere anche nel mondo, così come ci siamo fatti riconoscere ieri sera a Bordeaux, mi pare. Giovanni da Mantova, buongiorno. Buongiorno. Io mi chiedo come mai lo scandalo scoppi sulla vicenda Balotelli. A me sembra di essere sceso dalla luna. Purtroppo io vado, purtroppo anche per fortuna, perché mi piace molto, vado allo stadio da 30 anni e come mai lo stadio Olimpico non è chiuso sistematicamente? Come mai lo stadio di Verona non è chiuso sistematicamente? Come mai lo stadio di Milano sponda Inter, dove si canta rossoneri ebrei una domenica sì, una domenica no, non è sempre chiuso? Perché salta fuori tutto adesso? Io credo che sia perché con la vicenda Balotelli va storto un piano politicamente corretto, essendo Balotelli italiano, nonostante le gaffe clamorose che ha fatto nella sua trasmissione l'avvocato Campana. Probabilmente si sperava che con Balotelli le cose andassero diversamente, per usarlo in qualche modo come testimonial. Purtroppo non è così, perché la civiltà negli stati italiani ha poca cittadinanza, e bisogna anche dire che non è così perché Balotelli non è cacà. Balotelli è uno che risponde, che provoca, che a me piace moltissimo e sono convinto, io sono stato un ultras per molti anni, sono convinto che piaccia molto anche alla gente che lo insulta, perché è una persona che lo si vede, lo si è visto in un sacco di occasioni, uno che va a fare frontino a Cristiano Ronaldo al primo contrasto, che va a zittire i romanisti che gli fanno i versi, che a Torino, dove sa che lo detestano, entra in campo per ultimo da solo, proprio come dire ditemene di tutti i colori. Beh, questo... È andata male questa vicenda di Balotelli, l'italiano di colore, il giovane che fa tanta carriera, però da qui a scendere tutti dall'albero a dire c'è il razzismo, ci si chiede dove è stata la gente in tutti questi anni. No, sono d'accordissimo. Lei ne ha viste esattamente quanto me, certo. Roma non si potrebbe giocare. No, sono d'accordissimo con la sua tesi, tra l'altro molto molto brillante. Sono sinceramente ammirato da questo transfer su Balotelli che lei ha fatto rispetto alle tifoserie avversarie, perché non ci avevo pensato e giuro che ci sta. E come dico questo, però non si era mai sentito uno stadio intero, praticamente intero, come mi pare fosse il 18 aprile scorso in Juventus-Inter. Cioè lei ha ragione a dire che, per carità, il razzismo in Italia da stadio, non scoprirlo oggi è un tantinello ingenuo ed è soprattutto post-datato, ma è vero che una curva che intona e uno stadio che si adegua felice, come è successo lo scorso anno a Torino, era un salto di qualità che prima non c'era ancora stato, o sbaglio? Beh, insomma, Garanzini, Lazio Livorno, stessa iniziale, stesso forno. Sì, però mi scusi, per carità, non sto facendo classifiche, sto cercando di capire perché quel giorno, non io, ma tutta l'Italia si domandò sbalordita dove eravamo arrivati in quel momento. I forni e le cose tra laziali e livornesi sono però reciproci, nel senso che ci sono ultra da una parte e dall'altra. No, anche sì. Politicamente. Sì, è vero, però allora i rossoneri ebrei non si... No, beh, il rossoneri ebrei è una delle ragioni per cui ho smesso di andare allo stadio, no. E non ci tornerò mai più nemmeno. Lei ricorderà lo striscione dei veronesi quando il Verona comprò il giocatore di colore, il negro ve la regalà, dasi che è stadio d'annettà, fategli pulire lo stadio. Sì, sì. E il Verona, il negro lo spedì alla Salernitana. perché bisogna anche dirci queste cose, certo, perché si vuole, l'unica cosa che agli ultras interessa di più del loro essere ultras è il risultato. Guardi, se Giovanni, se vuole intervenire ci si mette 5 minuti. No. Primo coro razzista, chiusa la partita, dopo 3 volte è finita. Io la ringrazio di questo suo intervento, che non so, sembra in questo momento arriva una mail firmata Piero da Bergamo che dice: posso darle un consiglio? Dovrebbe organizzare una puntata ed invitare un sociologo per spiegare bene a tutti cos'è il razzismo, perché certa gente o fa finta di non capire oppure è talmente ignorante da non sapere nemmeno che cos'è. Caro Giovanni, si ritenga invitato prossimamente, perché così almeno non sono costretto ad interrompere adesso in maniera spiacevole comunque un intervento dotto e documentato come il suo, e possiamo come dire, dare soddisfazione alla lettera di questo ascoltatore, che sono certo non è l'unico a porsi questa domanda e ad avere questa curiosità. Grazie Giovanni, andiamo a Comoda. Andrea, buongiorno. Sì, buongiorno, premetto che il mio intervento sarà di più basso livello rispetto al precedente. Beh, non si offenda, perché quello di prima eravamo sull'altino davvero. Insomma. Sì, molto. Io parlando a livello tecnico un po' della Juventus, io sono convinto che il problema della Juve di ieri sera, ma anche contro l'Udinese nonostante la vittoria, sia del Piero, non che è colpa sua. Però la Juve aveva trovato una quadratura, lei non piace parlare di numeri, di moduli, però un 4-2-3-1 che cominciava a funzionare, o quantomeno quando la Juve lo faceva funzionare bene è stato devastante contro la Sampdoria, l'Atalanta. Sì. Da che è entrato Del Piero questo 4-2-3-1 non può più funzionare, perché Diego sulla sinistra non ci sta. Però Andrea, è vero, però contro l'Udinese Del Piero ha giocato soltanto la parte finale. Esattamente come ieri, in cui è stato sostituito da Immobile, no? E già mi pare che il tabellino dica tutto della prestazione di ieri Del Piero. Però l'altra sera invece aveva giocato solo una parte di partite. Sì, è vero, in effetti quello è vero, la Juve è stata brillante tutta la sera, però... Però lei dice che comunque questa potrebbe essere una chiave di lettura, non la escluderei affatto. Marco, provincia di Milano, buongiorno. Buongiorno, sono Garanzini. Dica. Mi ricollego al discorso Balotelli, io sono milanista, abbiamo anche noi un problema di fischi su una persona di colore, parlo di Seedorf, volevo sì. un chiarimento, io sono la prima tessera 1968, sì. Non abbiamo fischiato mai nessuno, né Calloni, né Blissett, né Jordan, né Atley, anzi tutti sì. Applauditi. Io mi chiedo perché il pubblico continua a fischiarlo e perché tutti i giornalisti, commentatori sportivi, compreso lei, continuate a difenderlo. Per me il problema del Milan si chiama Clarence Seedorf, che giocando lui la squadra è scoperta e facciamo la fine di ieri sera che potevamo giustamente perdere. Ah, giocando lui è scoperto, non giocando Ronaldinho. No, capito. No. Pagelle della Gazzetta oggi confermano la mia. Ah, se arriviamo alle pagelle. E anche 80.000 San Siro. No, certo, ma gli 80.000, che forse erano qualcuno meno, però adesso vado a vedere i paganti, magari fossero 80.000. Gagliari si fregherebbe le mani e non riaprirebbe la campagna abbonamenti. Comunque, tutto, i fischi di tutto San Siro ieri sera li ho sentiti e sono abbastanza certo che non siano fischi razzisti, visto il colore della pelle di Seedorf. Sono fischi che io non riesco molto a capire. Se poi mi cita le pagine della Gazzetta o i soffietti televisivi, magari, perché come forse saprà Ronaldinho nel marketing, qualche maglietta in più di Seedorf, che qua da tanti anni riesce ancora a farla vendere, beh, allora se mi cita una fonte, una cosa così, insomma, un giudizio così autorevole come le pagelle, allora lei ha stravinto. Grazie Marco. Volevo segnalare che a due giorni, leggo questa agenzia, a due giorni dal derby della Lanterna numero 101, è morto la scorsa notte Giuseppe Baldini, conosciuto da tutti come Pinella Baldini, autore del primo gol nella storia dei derby genovesi. Pensate, era il 46 e al 26esimo nel primo tempo Baldini segnò il primo dei 3 gol con cui la Sampdoria batté il Genoa. Ma non è finita lì, perché Baldini fu anche il primo giocatore a segnare in un derby genovese con entrambe le maglie. 4 gol con la Sampdoria e poi un gol con il Genoa nel 1950, un record che poi fu eguagliato solo da Firmani nel 56 e nel 62. Pinella Baldini aveva 87 anni ed era nato a Russi, in provincia di Ravenna. Tocca a Vincenzo da Brindisi, buongiorno. buongiorno signor Garantini. Io cerco di portare il mio modesto contributo alla discussione. Io non credo che il problema Balotelli sia razzismo, io credo il problema sia in generale la diversità. Oramai in Italia non riusciamo più ad accettare tutto ciò che è diverso, e se poi questo arriva nel calcio, anche perché gli esempi che viviamo quotidianamente dalla politica, le esondazioni, il buon gusto, il garbo nella discussione, nell'agire, ciò che viene invocato ogni domenica, il fair play, va da qualche altra parte, perché qualche esempio l'abbiamo visto anche durante le partite di Coppa. Io mi meraviglio che ci siano non mi meraviglio che ci siano episodi come quello di Balotelli, che probabilmente è anche una ragione di reciprocità con le tifoserie. Sicuramente la pedagogia non aiuterà Balotelli, non aiuterà neanche i tifosi, però se Balotelli continua a insistere con i suoi comportamenti, credo che ci saranno stati interi che si attaccheranno alla sua persona. Vincenzo, su questo io la seguo, anzi l'ho pure preceduta di mesi, perché certi comportamenti di Balotelli sono fatti apposta per attirare i fischi. Diciamo che una volta si urlava scemo scemo, per esempio, no? Per cose di questo genere, per i comportamenti di Balotelli, e credo che magari lo ferirebbero in maniera, come dire, accettabile, corretta, come da diritto al dissenso da parte del pubblico. Quello che invece di gridano è qualcosina di diverso, no? Torniamo in onda con il consueto ripasso. Vediamo cosa si è inventato oggi per il 26 novembre Nicola Filippone. Sembra ieri. 26 novembre 1939. La Germania riesce per la prima volta a vincere in casa contro l'Italia. I campioni del mondo si presentano però a Berlino in formazione rimaneggiata. Il CT Pozzo punta sul blocco del Genoa, l'unica squadra italiana che in quel momento adottava il sistema. Ma l'applicazione sperimentale del nuovo modulo si rivela un fallimento, anche a causa della scarsa esperienza internazionale degli azzurri in campo. La Germania si impone per 5-2, trascinata da Franz Binder, uno degli austriaci diventati nazionali tedeschi dopo l'annessione nazista del loro paese. Se, dunque, qual è la domanda? Se tra Inter e Rubin finisce pari, chi passa? Domanda Claudio d'Alessandria. Se finisce pari 0-0, passa l'Inter. Se finisce 1-1 pari, passa l'Inter. Se finisce 2-2, passa il Rubin Kazan. Quindi l'Inter ha tanti risultati a favore. Alla Juventus basta il pari con qualsiasi segno contro il Bayern, però insomma, restano, avendo sprecato già un match point, restano partite insidiose, perché è chiaro che sia Rubin Kazan che il Bayern soprattutto si giocheranno la stagione addirittura, no? Perché poi i russi vanno in letargo e i tedeschi, messi come sono in campionato, l'ultima speranza che hanno di salvare un'annata che si preannuncia nerissima è per l'appunto quella di restare in Coppa. È una partita insidiosa, con le italiane ovviamente favorite. Sentiamo Luca, chiamato da Varese, buongiorno. Sì, buongiorno. Niente, volevo portare anche io il mio contributo sul discorso cori razzistici e compagnia. Io sono milanista come Balotelli, perché a quanto pare dichiarato di essere milanista, e ho cominciato ad andare allo stadio quando avevo 16 anni, mio padre mi portava, che aveva l'abbonamento al Primo Anello, e io scappavo in curva perché preferivo divertirmi comunque a seguire la mia squadra in un altro modo. Lo scorso anno ho portato la mia bambina per la prima volta, abbiamo fatto l'abbonamento, Primo Anello, chiaramente non l'ho portata in curva perché ha 10 anni, e devo dire che comunque ci siamo divertiti e si è divertita, l'esperienza comunque è piaciuta, anche perché sapevo che, nonostante la mamma diceva ma no, lo stadio, io ho spiegato non preoccuparti che vedrai che ci si diverte, infatti così è stato. Quest'anno non abbiamo più rinnovato perché siamo dei delusi che aspettano la lettera di Gagliani, vabbè. Comunque il discorso dell'educazione allo stadio, chiaramente non è una parrocchia, non siamo in chiesa, chiaramente si sa, non c'è bisogno della curva, anche il signore magari che mi capita la domenica dietro, sì. Che si arrabbia un po' di più, la parolaccia scappa, vabbè, quello sappiamo dove siamo. Il discorso, appunto, rilasciandomi il discorso dei cori, concordando col ragazzo che hai chiamato prima, il sentire, la cosa mi dà fastidio anche a me, sentire che anche addirittura l'UEFA per cori razzistici, cioè se i cori sono quelli di cui abbiamo sentito, perché io poi non essendo presente, per l'amor di Dio, sono solo quelli, se saltelli, puntini, puntini, insomma capisco tutto, ma sappiamo benissimo che non è razzismo, perché se c'era Lucarelli in fondo al posto di Balotelli, allora cos'era? Cioè questo è il discorso, ecco perché mi riallaccio anche al discorso di Buffon, Sì. Non dico razzismo all'incontrario, però insomma sappiamo dove siamo, sappiamo che il coro fa parte del gioco. È chiaro che in certe situazioni, tipo l'esempio dei forni di prima, sono cose pesanti, perché sì, appena Luca, sono cose pesanti secondo me da chi non vive lo stadio quotidianamente. Ecco, no, bisognerebbe viverlo di più lo stadio, così ci faremmo una cultura superiore. Luca, io rispetto la sua opinione, inorridisco solo in parte, perché insomma il suo non è un intervento a inorridire. Ho letto prima un sms di quel povero uomo che arrivava da Lecco, e quindi qui siamo, se Dio vuole, su ben altri livelli, però un pochino di brividino nella schiena lo sento lo stesso, come lo sento per Buffon, scrive Pasquale Marino, è una mail appena arrivata a proposito dell'intervento di Buffon. Dice: ricordo che Buffon è quello che si scrisse sulla maglia del Parma poi a chi molla, ignorandone il significato originale. Sì, e io potrei aggiungere che scelse anche il numero 88, che nella simbologia nazista ha un significato che è meglio lasciar perdere, ma insomma errori di gioventù fino a un certo punto, perché era già abbastanza adulto. Niente, magari questo può servire a spiegare certe minimizzazioni, oppure magari no, chi lo può dire. Anche Lippi minimizza, sentite un po', no, ma non c'entra il razzismo qua, se Dio vuole. Dice: questa è un'anticipazione dell'Espresso in edicola domani, che l'ANSA ha appena battuto. In una lunga intervista Lippi dice: in tanti dicono che sono testardo e arrogante, il mio vero difetto invece è la coerenza. Ammazza che autocritica. Tifosi e giornali sono come i partiti politici, per la nazionale ognuno è il suo candidato, è legittimo, per carità, ma io seguo le mie idee con convinzione, e quando non do spiegazioni è perché sono certo che ci costruirebbero su altre polemiche. Io per le mie idee vado anche contro i camion. E a proposito di Cassano, dice: a me dispiace molto per lui, perché è proprio un bravo ragazzo, ma si è creata una situazione incredibile. Quale sia questa situazione incredibile? O l'anticipazione dell'ANSA di questa intervista dell'Espresso è incompleta, oppure nemmeno stavolta è dato sapere. Corrado, Piacenza, buongiorno. Buongiorno, scusi dottor Garantini, mi riferivo all'ultimo, soprattutto all'ultimo turno di Champions League, che ha visto impegnate le italiane. Notavo un problema che ha accomunato tutte le nostre squadre, mi riferisco in particolare al fatto che tenendo in considerazione che forse a livello tecnico io vedo singolarmente i nostri giocatori, vedi la Juve contro il Bordeaux, anche singolarmente più forti, questo problema, ecco, lo riferisco al fatto che al portatore di palla nostro spesso si vedono raddoppi di marcatura da parte loro, un certo pressing asfissiante, ci portano via il pallone e poi fanno il gioco, creano le occasioni, segnano e vincono. Giocano meglio, Corrado, in altre parole, perché giocano meglio, o comunque stavolta hanno giocato meglio nettissimamente il Barcellona, insomma, e abbastanza nettamente direi anche il Bordeaux. Edoardo, provincia di Milano, chiudiamo, dica. Buongiorno, io sono abituato molto ad ascoltare ma mai a intervenire, quindi sono un po' così emozionato. Sulla questione Balotelli, io mi domando, anche ieri Rivera, lo stesso Pistro ieri mattina, e Buffon, Cannavaro, cioè si dimenticano di dire che Balotelli non era in campo. Non c'era l'Inter in campo, cioè completamente con altre squadre, questo è la cosa assurda. Capisce cosa voglio dire? Cioè, lo capisco, sì, Edoardo. Infatti, questa è un'osservazione quanto mai pertinente. Poi Rivera, Pizzo, eccetera, parlavano di un altro aspetto, perché si partiva da un'altra angolazione. Ma questo, in effetti, lei ha fatto molto, ma molto bene a ricordarlo. Lei è uno che parla poco, l'ha detto prima, ma quando parla, evidentemente prima riflette, perché è vero, questo non era stato fatto notare fino a questo momento. Grazie a Carmelo Lauricella in regia, a Flavio Suardi e Franco Piantanida in redazione. Giornale Radio.